www.radio3pod.rai.it. Prima l'uovo, la gallina, le penne o i calamai. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli incombe l'ombra della ristrutturazione aziendale, Kappa e Drago cantano e ballano il funk. Zeig dein Talent, das Buki. Zeig dein Talent, a Buki Buki. Zeig dein Talent, das Buki. Zeig dein Talent, a Buki Sfera. Sì, è contagiosa, è la canzone di Buki. Sì, è funky tedesco pre-espressionista. Sì, sì. Bisognerebbe consigliarlo a quelli che vendono la musica online come nuovo genere da affiancare a adult oriented pop folk soul. Signor tenente, anzi tambur maggiore, sta pistola è troppo cara. Lei è un ebreo, signor tambur maggiore, e vende pistole troppo care. Senti, Büchner, sfebbrato non vale più una cicca. Senti cosa dice. Signor tenente, il signor tenente, minchia, anzi porca Eva, tambur maggiore, questo coltello quanto fa? È un coltello bello dritto per tagliarsi la gola con questo coltello. Ma signor porca Eva, tambur maggiore, minchia, lei è ebreo e vende il coltello troppo caro. Ebreo, signor ebreo, tambur maggiore, porca Eva, tenente ebreo. E fu così che Georg Büchner, guarito miracolosamente dal tifo, smise di comporre il dramma Woyzeck e diede alle stampe un romanzo poliziesco dal titolo Porca Eva, signor tambur maggiore. Vagamente ispirato alla trama originale del Woyzeck, il libro venne accolto malissimo dalla critica e valse all'autore il titolo di venduto. Bisogna però aggiungere che il libro di Büchner uscì anni prima di quelli di Edgar Allan Poe, considerati i primi gialli della storia. Quindi, a distanza di anni, Büchner prese il posto di Poe nella storia della letteratura e Poe venne declassato a semplice imitatore. Invece di morire a 23 anni, Büchner arrivò a 96 e scrisse per tutta la vita romanzi aventi come protagonista un medico di Lipsia dal forte accento sassone. Porca Eva, signor tambur maggiore, di Georg Büchner. Trama. Il dottor Fishman è un medico con la passione per l'anatomia e per la ricerca della verità. Non parla tedesco corrente, ma solo una variante locale del Sächsisch, ossia il dialetto della Sassonia. Una serie di omicidi brutali sconvolge Lipsia. Un serial killer sta uccidendo tutti i tambur maggiori dell'esercito prussiano con un veleno sconosciuto. Il dottor Fishman, a forza di sezionare budella e segare ossa, riesce a identificare il veleno e di conseguenza ad arrivare a smascherare il colpevole. Un soldato umile e ombroso, pazzo d'amore per la moglie, che però era una gran puttana e aveva l'insana passione per i tambur maggiori. La fabbrica di polli. La palla rotola per le discese, la pelle invecchia nelle lunghe attese. Il PIL non cresce più nel tuo paese e il pollo ingrassa ma non ha pretese. Ci son parole che cambiano vocale, ma il senso del disastro, il senso del disastro resta uguale. E noi amministratori delegati abbiamo la vita contata, perché o ci cacciano via oppure diventiamo pazzi, perché con la vita che facciamo si impazzisce, chiaramente. Allora, qual è la tecnica? O farti impazzire prima possibile, in maniera tale che ti ristrutturano senza pagarti. Ma ristrutturano in che senso? Ristrutturano, si dice ristrutturare. Non sai cosa vuol dire ristrutturare? Vuol dire licenziare, la parola moderna che non si usa più licenziare, capito? Si dice ristrutturare. Vabbè, se licenziano l'amministratore delegato, K, per noi si apre un bel periodo incerto, eh? Ma incerto, incerto soprattutto per l'amministratore. Ma dai, ma figurati. Ma sì, con la liquidazione può vivere di prepotenza per quanto tempo vuole. No, dipende, scusa, le corporazioni conoscono tutti i trucchi del mondo per far saltare la liquidazione ai manager, sì. Ma certo, cavilli contrattuali non rispettati, dati falsati allo scopo di far sembrare il manager un incapace, mobbing al contrario. Ma mobbing al contrario? Ma sì, Drago, mobbing al contrario. Quando i dipendenti fanno impazzire il capo, lui va fuori di testa, si dimette e si toglie di mezzo da solo. I dipendenti sono la feccia dell'umanità. Povero amministratore, spero che rimanga al suo posto. Io in qualche maniera gli sono perfino grato. Ah, sì, anch'io gli sono grato. Certo. Drago, è grazie a lui che ogni giorno in questa fabbrica è un carnevale! Amministratore delegato, sono grato. Cada dia nessa fabbrica è un carnevale. Administrador, delegado, te somos gratos que cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Cada dia nessa fábrica é um carnaval. Certo che questo what if alla fine funziona, eh? Büchner senza febbre diventa il capostipite dei giallisti. Camilleri, per creare il suo Montalbano, si ispira al dialettofono Dottor Fishman di Büchner. Faletti nel XXI secolo stupisce tutti con una performance di body art in cui praticamente si toglie di mezzo con una specie di karakiri tipo Yukio Mishima. Ma è karakiri o harakiri? Harakiri, forse. Harakiri. E poi è Yukio Mishima o Yukio Mishima? No, forse sarà Yukio Mishima. Come? Yukio Mishima, perché in giapponese si accentano tutte le sillabe e si parla a scatti. Yukio Mishima. Ah, quindi per dire qualcosa in fretta, tipo aiuto, la casa sta bruciando. Uno deve dire aiuto, la mia casa sta bruciando. E poi muore nell'incendio. Vabbè, capo, a parte che bruciando in giapponese non esiste, loro direbbero baluciando. Come baluciando? Eh sì. Il gruppo consonantico brr è impronunciabile per un giapponese. La R diventa L. E la B deve appoggiarsi a una vocale, quindi diventa baluciando. Do you understand, Mr. Ohira? No. Joao, ormai mancano solo 5 o 6 giorni, non ricordo più, incomincio a perdere il conto. 5 o 6 giorni e poi ti macellano, eh? Lo so che è triste, ma non puoi guardarmi con quegli occhi spaventati, no? In fondo l'hai sempre saputo, no? Sì, ma io ho fame. Sì, ma basta con questa storia che hai fame, no? Ormai ti macellano, e che senso avrebbe mangiare adesso? Tu mettiti il cuore in pace e ricordati di ringraziarmi, eh? Sì, ringraziarmi, perché io alla fine ti ho fatto passare un mesetto in serenità, illudendoti che non ti avrebbero macellato, no? E quindi è stato meglio così. D'accordo, hai sofferto la fame in un modo pazzesco, ma guarda che è meglio morire a stomaco vuoto, eh? Non quando sei tutto gonfio che fai schifo, che poi è peggio, eh? Ma io ho fame. Ma non fare così, dai! L'ho fatto per il tuo bene, io! Dobbiamo morire tutti prima o poi, no? Questo è il destino di noi polli. È l'incubo della morte. Però forse io sono un'eccezione, Perché io il becco ce l'ho, Aia! Aia! Sentito che becco, eh? Che cosa succederà adesso? La pantomima della dieta a oltranza per il pulcino Joao era davvero soltanto un crudele scherzo dell'infame pollo in sbattimento? Aia! Aia! Uè, piano con le parole, E quali altri sconvolgimenti porterà la guarigione di Büchner nella storia della letteratura mondiale? E poi, che fine ha fatto Amogene? Amogene! La risposta a tutto questo e ad altro ancora, domani alla stessa ora su Radio 3, per il prossimo aggrovigliato allestimento de... La fabbrica di polli produce... Non muoce... La fabbrica di polli, un programma di K e Drago prodotto dall'Istituto Barlumen. La fabbrica di polli è trai.it.